Questa settimana Parallelo Palestina vi porterà al Festival Al-Ard, che si è svolto a Cagliari dal 20 al 24 febbraio. Cagliari, mercoledì 21 febbraio. Parallelo Palestina vi racconta la seconda giornata del Festival Al-Ard. Il cambiamento di date ha fatto perdere a parecchie persone venute d'oltremare l'apertura ed i primi film in programma. Le proiezioni di oggi, mercoledì We Will Remain e Little Sahara, hanno come tema centrale il colonialismo europeo. Il colonialismo nella Valle del Giordano vuole cacciare i beduini palestinesi da sempre dediti alla pastorizia nomade, costringendoli in aree sempre più anguste, privandoli della possibilità di spostarsi e di cercare nuovi pascoli. Una comunità beduina palestinese che anni fa possedeva un gregge di 100 pecore ora non ne ha più di una decina. La stessa cosa succede nel Sahara occidentale, dove migliaia di nomadi sahrawi vivono in esilio una vita dura in campi profughi, dopo essere stati cacciati dalle loro terre che forniscono al resto del pianeta il 70% dei fosfati necessari a fertilizzare le colture agricole. Daniele Rugo, il regista di The Soil and the Sea, ci ha portato ancora nel paese dei cedri, paese emblematico per la complessità delle varianti politiche, religiose che caratterizzano la sua popolazione, cui va aggiunto un gran numero di rifugiati. Paese ricordato soprattutto per la guerra civile che l'ha dilaniato dopo gli anni 70. Il film attanaglia in una morsa la coscienza umana quando racconta le scelte di morte piuttosto che di vita della popolazione libanese, popolazione dalle dimensioni modeste, compressa tra linee di faglia geopolitiche e geostrategiche. Scene di morte simili si presentano ai nostri occhi in Africa, ma difficilmente siamo in grado di riconoscerle, non solo perché la gente là è nera, ma perché la immaginiamo sperduta tra gli immensi spazi delle savane. È stata piena di energia la terza giornata di Al-Ard, giovedì 22 a Cagliari. In heavy metal protagonisti sono le ragazze, sollevamento pesi. Genitori, allenatori, sfide agonistiche come in Italia. E sul collo il velo. Altra grandissima carica ci ha regalato il film Real Rock. Resistance Climbing. Anche qui solo giovani, beduini, alternativi, professionisti, un giovane palestinese è venuto a scoprire le sue origini da oltremare. L'arrampicata come potere terapeutico in una situazione di conflitto permanente. Come liberazione efficace dalla feroce pressione quotidiana dell'occupazione sionista. R21H, Restoring Solidarity, è un film che non lascia spazio ad esitazioni. Il movimento di solidarietà giapponese con la Palestina ha recentemente restituito alcune pellicole con straordinarie immagini di archivio. E il materiale ha permesso di ricostruire la storia della Palestina fino al 1982. È una proiezione che inchioda la poltrona dall'inizio alla fine. Il Dito e la Luna, presentato nella sezione Saterra del Festival, è una denuncia contro lo sfruttamento militare della Sardegna da parte della NATO e dell'esercito italiano. Protagonista del documentario è il rapper Bucky's Back. I suoi brani e l'hip hop sono la testimonianza della censura che ormai modus operandi del nostro Stato non più sovrano. Quella di giovedì è stata una giornata straordinaria, le proiezioni sono state molto molto cariche, ci hanno riempiti di energia. Questi film bisogna farli girare, bisogna che tutti li vedano. Nel penultimo giorno abbiamo visto la proiezione di due lavori premiati. Uncle, Give Me a Cigarette è stato premiato come miglior cortometraggio di finzione. Un corto di 5 minuti che mostra la complessità della vita all'interno delle mura della prigione. E In the Shadow of Beirut è stato premiato come miglior film documentario. Sei mai stato in un campo profughi? Puoi farlo con questo film, nel campo profughi di Shatila, entrando con delicatezza nell'intimità della vita di alcuni dei suoi abitanti. Storie di vita e di sopravvivenza. Candidato per il miglior film internazionale agli Oscar 2024. Lo stesso pomeriggio abbiamo visto anche Yalla Gaza di Roland Nurier, che non ha deluso le aspettative. Ricostruisce con matematica precisione geopolitica, sionismo, politica palestinese interna e diritto internazionale della striscia, per demistificare i pregiudizi e ripristinare le ragioni della speranza. L'ultimo giorno del festival, fuori concorso, è stato proiettato Siriani in un paradiso in frantumi, documentario girato sulle alture del Golan, la cui popolazione vive aggrappata alla propria identità siriana, lottando contro i tentativi di assimilazione alla società israeliana. Una storia di resistenza che continuerà fino al ritorno della sovranità nazionale. Notevole è stata, nella stessa giornata, la presentazione del libro Università e militarizzazione di Michele Lancione, in presenza dell'autore. Qual è il problema? Come possiamo indagarlo? Come contrastare la convergenza tra mondo accademico e mondo militare? A conclusione della giornata, l'emozionante concerto del duo Gazelle Band, formato da Rima Ambar, suonatrice di oud palestinese, e Louis Breoni, che lavora su composizione e arrangiamenti di musica etnica. Li trovate su piattaforme mediatiche internazionali come la BBC, Al Jazeera e TRT. Sabato 24 si è chiuso il sipario sulla 20ª edizione della Lard Film Festival. Ha lasciato dietro di sé una scia di esperienze cinematografiche indimenticabili. Dalle meraviglie animate agli avvincenti documentari, il festival ha messo in mostra l'ampiezza e la profondità dell'abilità narrativa sulla Palestina e sul mondo arabo, da tutto il mondo. Ecco i film premiati. Miglior cortometraggio di finzione Uncle Give Me a Cigarette, un corto di 5 minuti realizzato in stop motion ma raccontato in modo semplice e originale da 14 ragazze di età compresa tra i 10 e i 17 anni che hanno partecipato al workshop organizzato dall'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi. Miglior cortometraggio documentario Heavy Metal è il film sulle atlete di sollevamento pesi, premiato per la dolcezza e l'intensità dei ritratti, per la determinazione e il coraggio con cui le protagoniste inseguono i propri sogni, nonostante le dure sfide che la società e la vita possono imporre all'interno di un campo profughi. Per la forza e la speranza del messaggio, che racconta una storia di tenacia ed emancipazione. Miglior film documentario All'ombra di Beirut mostra la drammaticità della vita all'interno del campo profughi di Shatila, raccontando le storie di alcuni abitanti. L'uso efficace della cinematografia rivela una forte sensibilità e capacità di osservazione da parte dei registi. Il premio del pubblico è andato a Real Rock, Resistance Climbing. Il film ha suscitato una grande empatia e carica liberatoria in chi l'ha visto, condividendo quelle arrampicate nella situazione del conflitto permanente sotto l'occupazione. Menzioni speciali della giuria sono state inoltre assegnate a, nella categoria cortometraggi di finzione, De Chi, un corto di 19 minuti per la sua narrazione avvincente, nella categoria cortometraggi documentari a Little Sahara per la sua narrazione accattivante, nella categoria lungometraggi documentari a The Soil and the Sea, La terra e il mare, di 73 minuti, per il suo ritratto penetrante delle complessità della vita, perché ci inchioda alla consapevolezza quando umani scegliamo la morte per risolvere il conflitto. Questi film premiati, ma non possiamo dimenticare film come We Will Remain, sul colonialismo nella Valle del Giordano, oppure R21H Restoring Solidarity, che ricostruisce la storia della Palestina fino al 1982, oppure Yalla Gaza, che ricostruisce con matematica precisione quella della striscia, oppure Siriani in un paradiso in frantumi, che parla della gente del Golan occupato. Chiuso il festival il concerto della Gazelle Band, un duo palestinese composto dall'artista Yehoud e musicoterapista Rima Ambar e dallo scrittore e musicista Louis Brewny. I Gazelle Band raccontano la storia palestinese attraverso la musica e hanno sede a Manchester, in Gran Bretagna. Invitiamo l'ascolto di un loro brano, Isal Roach. Aspettiamo con ansia la prossima edizione della LARD Film Festival. Qui Parallelo Palestina. Palestina libera. Stop genocidio. Thank you.